Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi e benvenuti, un benvenuto un po' infreddolito, siamo sotto la neve anche qua a Milano, ma c'è già Giorgio Mattei in regia, la parte tecnica, sorridente, con un sorriso caldo che riscalda, Laura Vanossi in redazione, e andiamo subito a sentire i titoli del nostro sommario. Animali, conoscerli per amarli di più. Canta che ti passa. L'Italia non è un paese per vecchi. Sì, oggi abbiamo pensato di dedicare questa puntata agli animali per avere un po' l'occasione di raccontare storie di amicizie, di fedeltà, ma anche per avere tanti consigli per garantire sia a noi che a loro una convivenza 5 stelle. Lo proveremo con l'aiuto dei nostri esperti, soprattutto a capire qualcosa di più dei nostri amici a quattro zampe. Cercheremo di conoscerli meglio, provando un po' a metterci nei loro panni. Loro sicuramente ci rendono felici, ma noi siamo sicuri di ripagarle con la stessa moneta. 824 0024, questo è il numero che è già attivo, dedicato oggi a chi ha la fortuna di vivere con un animale e di avere quindi la sua amicizia. I messaggi al 349 238 6666. Oggi ci aiutano il dottor Mauro Cervia, medico veterinario di Milano e presidente dell'associazione Amo gli Animali. Buongiorno dottore. Buongiorno a te Nicoletta. Ben trovato, avrei preferito averla qua in studio, ma la neve ha bloccato anche lei. È vero, purtroppo. In linea con noi il professor Roberto Marchesini, docente di etologia e zoantropologia e direttore della Scuola di Interazione Uomo-Animale di Bologna. Professore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Professore, nevica anche a Bologna? No, piove. Piove, e beh, allora meglio la neve. Dottor Cervia, lei con che animale vive o con quanti animali vive? Beh, allora io ho vissuto praticamente con tutti gli animali. Ho avuto un cavallo, ho avuto dei conigli, ho avuto dei cani, dei gatti, praticamente un po' tutti gli animali. Comunque adesso ho un cagnolino, un piccolo cane di razza Jack Russell, femmina, che è il cane di famiglia di questo. E lei, professor Marchesini? Ma io ho tantissimi animali, ho oche, galline, poi ho colombe, cani, quindi anch'io sono... È ben attrezzato, sì, quindi infatti. Oltre che da esperti potete parlare anche per esperienza di vita vissuta, perché così abbiamo lo stesso linguaggio, no? Quello di chi ama gli animali. Certo. Ma il tema che vorremmo affrontare oggi, la domanda che ci facciamo è questa: li amiamo nel modo giusto oppure li costringiamo, anche magari involontariamente naturalmente, a subire le nostre manifestazioni d'affetto? Proviamo a pensare ad esempio come guardiamo il nostro cane, come accarezziamo il nostro gatto, che cosa facciamo quando combinano un guaio, quanto tempo dedichiamo a loro e che cosa facciamo ad esempio quando portiamo il nostro cane al parco. Stiamo con lui o continuiamo a parlare al cellulare o parliamo con magari un'altra persona? 824 0024, messaggi al 349 238 6666. Dottor Cervia, un tempo il cane faceva la guardia, il gatto teneva lontano i topi, adesso cani e gatti entrano nelle nostre case, vengono trattati come dei bambini e diventano a pieno titolo membri della famiglia. Ci hanno guadagnato o ci hanno perso? Ma senti, senz'altro in parte hanno anche guadagnato, perché hanno guadagnato i nostri letti dove dormono e riposano, hanno guadagnato una situazione di privilegio che prima non avevano. Sì. Comunque fanno ancora la guardia i cani in casa, perché soprattutto i cani piccolini sono quelli. Quando mi chiedono un cane da guardia, io consiglio sempre di tenere in casa un piccolo cane che è attento a tutti i rumori e che abbaia e avvisa il padrone quando c'è qualcosa che non va. Sì, in effetti il mio, che è grande, devo dire che la guardia non la fa. Anzi abbaia quando la persona che è entrata a casa esce, per cui quasi a dire torna indietro. Professor Marchesini, io penso che anche lei, guardando il cane, il suo gatto, non so se gli è successo anche con l'oca, ma si sarà detto, anche se lei è un esperto e forse oggi ci farà cadere molte certezze, metterà in discussione molti atteggiamenti, gli manca la parola, quanto è intelligente questo cane? No, devo dire la verità, non l'ho mai detto, mi manca la parola, perché chiaramente ho sempre guardato gli animali, vanno veramente fin da piccolo cercando di capire quali erano le loro parole, e quindi non ho mai pensato che non avessero una parola, un linguaggio, ma che avessero un altro tipo di comunicazione, che quindi stesse a noi cercare di interpretare questo mondo ed evitare, voglio dire, adesso di fare come facevano i greci, che ritenevano che tutti quelli che non parlavano la lingua ellenica fossero barbari, facessero barbar. Noi rischiamo di fare la stessa identica cosa con gli animali, dal momento che non parlano la nostra lingua, non hanno la nostra stessa comunicazione, pensiamo che facciano barbari, siano dei barbari. In realtà la comunicazione animale è molto complessa, molto articolata e ci chiede un grandissimo sforzo per comprenderla. Anche se noi cerchiamo un po' di leggere, no? I loro gesti, i loro movimenti, un po' secondo il nostro punto di vista, per cui tendiamo sempre di più ad umanizzarli. Ma il processo dovrebbe essere esattamente quello che, insomma, piano piano ci porta ad interpretare in modo simpatico il mondo, cioè sei come me, quindi ti capisco, a un modo empatico, cioè arrivo a capirti anche se comprendo che sei diverso da me. Cioè l'immedesimazione, il trovare dei punti di contatto, dei punti di condivisione, è assolutamente un processo importantissimo. Quindi gli animali per tanti versi sono come noi, quindi hanno emozioni, hanno comunicazione, hanno tante cose che ci fanno somigliare a loro. Però per tanti altri versi ogni specie è differente, ha le sue caratteristiche, ha avuto il suo sviluppo sensoriale, cognitivo, emozionale e quant'altro. Quindi noi dobbiamo partire dall'immedesimazione per costruire l'empatia, cioè per l'accettazione della loro diversità, perché gli animali sono realmente diversamente abili, non sono solo, diciamo, dei quasi umani. Quindi impariamo a conoscerli meglio per amarli di più. Dottor Cervia, di solito quando si parla di animali da compagnia, generalmente, anche se ormai nelle case ci sono un po' delle specie di zoo metropolitane, si parla al cane e al gatto. Ci sono persone che dicono: ah, io sono da gatto, altri invece che dicono: no, io non potrei vivere senza un cane o riesco a comunicare solo con i cani. Lei che vede queste persone nel suo ambulatorio, ma sono davvero così diverse? Sì, beh, è differente il proprietario del gatto dal proprietario del cane. Il gatto comunque è un animale molto indipendente, mentre il cane dipende in tutto e per tutto da noi. Cioè, per esempio, un gatto libero può trovare una colonia di gatti e sopravvivere, un cane libero difficilmente riesce a sopravvivere. Quindi dipende da noi. Dipende da noi, e il cane ha imparato anche a comunicare, a mio avviso, con noi. Cioè lui ha imparato una gestualità che non è una sua abitudine, però comunque si impone di fare determinate cose per compiacerci, ma soprattutto per farci capire delle cose. Cioè sono talmente intelligenti che hanno capito, sono loro che cercano di comunicare con noi, mentre vedo tantissime persone che non riescono a comunicare con il proprio animale, cioè non riescono a interpretarlo, a capirlo, e quindi non danno una spiegazione a certi loro gesti. Professor Marchesini, lei ci aiuterà insieme al dottor Cervi a leggere alcuni atteggiamenti, comportamenti dei nostri animali per capirli di più e quindi per avere con loro una convivenza più felice? Certo. Vuole darci qualche spunto? Ad esempio, mi viene in mente come accarezzate il vostro gatto piuttosto che come vi avvicinate al vostro cane o a quello del vicino. Ci sono degli sbagli molto rilevanti. Col cane gli sbagli, per esempio, sono legati al fatto, per esempio, che noi tendiamo a guardarci direttamente negli occhi. Per noi guardarci negli occhi è un segnale di incontro, viceversa con il cane è un segnale un po' problematico di confronto e a volte addirittura di scontro. Noi rischiamo di avvicinarci al cane in maniera diretta, cioè in linea retta, e porci in maniera frontale davanti a lui, e questo assolutamente per il cane è un momento critico e problematico. Lo dice il fatto che quando apriamo la porta il cane deve entrare, noi ci mettiamo davanti a lui, gli diciamo di entrare in casa, lui si blocca e si ferma, perché in realtà con il nostro corpo gli stiamo dicendo: stai fermo lì. E poi facciamo tante altre cose sbagliate. Ne parleremo. Sì, cosa dice professor Marchesini? Ne parliamo. Abbiamo dato qualche stimolo. Raccontateci un po' che cosa fa il vostro cane, che cosa fa il vostro gatto, che vi sembra molto umano oppure che vi sembra un po' curioso, e come rispondete voi, in modo che proviamo a vedere se sbagliamo, se comunichiamo con loro nel modo giusto. Perché se continuiamo a sbagliare, quindi a sottoporli a delle pressioni, in un certo senso facciamo un po' di mobbing nei confronti dei nostri animali, giusto, professor Marchesini? cani? Infatti è proprio così, anche molto spesso si rischiano degli incidenti. Io vedo per esempio che le persone mettono subito una mano sulla testa del cane, è una cosa assolutamente sbagliata, corrono incontro verso il cane, anche questo è assolutamente rischioso, non gli danno i corretti spazi, lasciano che il cane si avvicini ad annusarli. Insomma, molto spesso addirittura dei bambini corrono e abbracciano il cane. Abbracciare un cane, l'abbracciare non vuol dire per il cane la stessa cosa che vuol dire per l'uomo. Per l'uomo vuol dire ti do affetto, ti voglio bene, ti chiedo affetto. Viceversa, per il cane quasi sempre viene interpretato come sono più forte di te, ti sfido. Certo. Quindi se noi abbracciamo un cane assolutamente estraneo, se questo morde è normale, perché noi l'abbiamo sfidato, abbiamo avuto un comportamento assolutamente maleducato nei suoi confronti. Quindi è importante insegnare questo alle persone. Non noi proveremo, sì, col proprio cane, ma anche per quello, certo. Arrivano già tantissimi messaggi. Vi leggo questo perché anch'io ho avuto una gallina, come il nostro ascoltatore ci scrive. Io avevo una gallina domestica, entrava in casa ma non sporcava, veniva in braccio se voleva essere accarezzata, ma in caso contrario era inafferrabile, mi mangiava in mano. E poi mi scrivono dei messaggi sui pirania e alcune raccomandazioni per i padroni di casa. Chiamateci 824 0024, scriveteci al 349 238 6666. Una mela al giorno. E a proposito di animali, alcuni testi di tradizione orientale narrano storie di personaggi in grado di richiamare e incantare le tigri grazie proprio solo al suono della loro voce. Io non mi arrischierei perché non riesco neanche a così richiamare l'attenzione del mio cane, che fa sempre tutto quello che vuole, ma comunque sul canto ci sono fior fiori di studi, soprattutto sulle proprietà terapeutiche del canto. Pensate che nel 500 si scriveva che cantare spaventa le malattie e le fa fuggire. Ma noi, quando parliamo di canto e di musica, ci rivolgiamo sempre alla nostra esperta, la dottoressa Erika Sibillo, medico ed esperta in musicoterapia. Bentornata, dottoressa Sibillo. Grazie, buongiorno a tutti voi. Sì, insomma, nel 500 si scriveva così, ma nel 2008 forse arriveremo a vederci prescritto dal nostro medico di famiglia. Si consiglia di accompagnare l'assunzione delle terapie, non so, cantando due volte al giorno, magari preferibilmente prima dei pasti, perché no? Faccio una bella cantata, signora. Ma io la faccio tutti i giorni, quotidianamente, devo dire che la consiglio a tutti voi proprio perché fa molto molto bene. Ma le proprietà terapeutiche del canto sono oggetto di ricerche e studi già da tempo, anche perché gli scienziati hanno cominciato a chiedersi per quale motivo a tanti piace così tanto cantare e soprattutto con questo grande entusiasmo. E allora un'altra volta andiamo in Inghilterra con i ricercatori inglesi dell'Università di Canterbury, che hanno condotto una ricerca su ben 12.000 persone, quindi un campione vastissimo. E i risultati ottenuti hanno proprio confermato questo, cioè il cantare fa molto bene sia dal punto di vista fisico ma anche di relazione con se stessi e con gli altri. Dottoressa Sibillo, esperienza di vita vissuta, lei canta e quindi che cosa le dà il canto? Ma innanzitutto migliora la respirazione, cioè voi provate nel momento in cui iniziate a cantare, sentirete il vostro respiro che si fa paradossalmente più leggero, cioè è una sorta di ossigenazione per il nostro organismo che quindi avrà un effetto benefico non solo sull'apparato respiratorio ma vi assicuro anche sull'apparato cardiovascolare. E qui, se torniamo un momentino nell'ambito medico, vi dico anche che pazienti affetti da disturbi cardiaci hanno trovato un notevole beneficio cantare, non dico a squarciagola, ma insomma accennare le loro musiche preferite con il suono della loro voce. Dottoressa Sibillo, anche se uno è stonato. Assolutamente, essere stonati è più una questione psicologica, perché alla fin fine non c'è nessuno stonato, basta solo avere la fiducia in se stessi e allenarsi un pochettino. Senta, dottoressa Sibillo, noi tra poco torneremo ad occuparci di animali, ma ci sono anche degli animali particolarmente canterini. Eh sì, ci sono i biomusicologi che studiano questo aspetto, cioè hanno studiato gli animali considerati più canterini in assoluto, che sono gli uccellini, vabbè, questo è abbastanza comprensibile, ma pensate anche alle balene. e hanno visto i canti di questi animali sarebbero delle vere e proprie composizioni musicali e non come si pensava prima solamente dei suoni stereotipati, atti solamente, non so, alla ricerca del cibo piuttosto che all'accoppiamento o a fuggire i pericoli. Quindi non solo per soddisfare esigenze biologiche, ma anche per vivere serenamente la loro vita. Quindi dentro ogni balena si nasconde un'orchestra. Assolutamente, se lo fa una balena penso che lo potremmo fare benissimo anche noi. Dottoressa Sibillo, grazie per essere stata con noi. Buona giornata, buona cantata, buone cantate. Grazie anche a tutti voi, un buon canto quotidiano. Pronto soccorso. Eccoci, noi torniamo a parlare dei nostri animali. Se vivete con un gatto, un cane, un coniglio, un criceto, tutti questi animali insieme, chiamateci 824 0024. Abbiamo due esperti a nostra disposizione, il professor Marchesini, il dottor Cervia, due le parole chiave della nostra chiacchierata ed è comprensione, quindi cerchiamo di capire come ci relazioniamo con i nostri animali, ma anche salute, quindi consigli per farli stare bene, sintomi da non trascurare. Andiamo subito a Genova, ci chiama Nunzia. Buongiorno Nunzia. Buongiorno, volevo accennare così brevemente alla mia convivenza col gatto, o quantomeno al gatto che io, il gatto è il mio padrone di casa in un certo senso, cioè lui che per gentile concessione mi lascia vivere sul suo territorio, ma è una cosa carina e simpatica, nel senso che abbiamo imparato a conoscersi e io ho imparato a parlare con lui e c'è un dialogo diciamo abbastanza costante, ci comprendiamo abbastanza bene. Lui con i suoi miagoli mi fa capire alcune cose, io gli rispondo, il mio tono della voce gli fa capire altre cose e ci rispettiamo reciprocamente per certi versi. Poi mi dà i suoi ordini e io come fa di darle ordini il suo gatto? I suoi miagoli hanno una modulazione sempre diversa. Il gatto non ha un miagolio unico, a seconda di quello che vuole e desidera, ha un miagolio diverso. Lui, le faccio un esempio banale, dopo mangiato, lui desidera farsi la pennichella con me e non c'è verso che tenga, perché lui vuole che io vada un pochettino sul divano perché si vuole accucciare sulle mie gambe. E questo è un miagolio diverso da quello da quando vuole mangiare o da quando miagola dietro la porta perché sta sentendo che io arrivo. Sono tutti miagoli diversi. Nel viso i gatti assumono espressioni diverse a secondo di quello che desiderano trasmetterci. Sì. Perché il gatto, così come il cane o tutti gli animali, sembra che hanno la stessa faccia, diciamo, ma non è così. No, è vero, la cambiano. Anche il mio cane cambia un po' espressione. Professor Marchesini, si ritrova nella descrizione? Sì, certamente. Nunzia ha capito il suo gatto. Il gatto, gli animali, sia il cane che il gatto, ha una mimica facciale molto complessa, quindi hanno le capacità proprio di espressione, mimica. E sotto il profilo della voce effettivamente il gatto è un maestro proprio nell'articolare suoni differenti per circostanze, per emozioni o per desideri, bisogni differenti, quindi sicuramente. Poi ci sono alcuni gatti che sono un po' più charlieri, altri un po' più silenziosi. Generalmente i gatti orientali sono, diciamo, miagolano un po' di più. Comunque in linea di massima sicuramente il gatto si fa capire molto bene, ha una comunicazione molto complessa. Si è solito dire che il gatto è un animale solitario, no, il gatto è un animale estremamente sociale, è un solista, cioè ama fare le cose da solo, cioè nel senso che quando deve fare qualche cosa non è come il cane che dice mettiamo insieme la squadra per operare, sì. No, lui dice no, lasciatemi fare, lasciatemi in pace che ho da fare, no? Quindi ha questa diversa, però ama tantissimo, soprattutto nelle situazioni di piacevolezza, stare in compagnia. Il gatto poi è un fantasista, nel senso che continuamente lui fa dei giochi di ruolo. Ogni tanto per il gatto siamo la mamma e allora viene sulle nostre ginocchia, impasta appunto come fa da cucciolo. Altre volte invece siamo i suoi piccoli e quindi va a prendere un topino e ce lo porta perché ci vuole insegnare a cacciare. Altre insomma volte un bel tipo. Corre dietro come se fossimo una preda e altre volte si fa rincorrere come se fossimo il predatore. Quindi questo, il gioco di ruolo, la fantasia è il mondo del gatto obiettivamente. Parleremo naturalmente anche del cane, ma dei conigli, dei criceti. Intanto, dottor Cervia, una risposta rapida ad un nostro ascoltatore che ci scrive: ho trovato proprio ieri sera un gattino e l'ho portato a casa. Quanto posso posso aspettare prima di portarlo dal veterinario? Mi potrebbe trasmettere qualche malattia, dottor Cervia? Indubbiamente deve portarcelo subito dal veterinario, perché sì. Adesso gatto... oggi c'è la neve, dottor Cervia, può portarlo lunedì, no? Può portarlo lunedì, certo, però prima poi lo porta meglio è, perché sì, in effetti è vero, il gatto randagio può avere delle malattie, come delle malattie della pelle, per esempio la micosi, che può trasmettere all'uomo. Sono tutte malattie che comunque si risolvono e non creano grossi problemi, però è bene fargli fare una bella visita veterinaria, assolutamente, prima di tenerlo in casa, soprattutto a contatto con i bambini oppure con gli altri animali di casa. Ed ecco, ci siamo di nuovo insieme. Oggi parliamo dei nostri amici animali. In linea con noi il dottor Mauro Cervia, medico veterinario di Milano e presidente dell'associazione Amo gli Animali. E sempre in linea il professor Roberto Marchesini, docente di etologia e zoantropologia e direttore della scuola di interazione uomo-animale di Bologna. 800 24 0024 è il numero per intervenire in diretta. Ma prima di continuare, ci colleghiamo con Firenze, in cui in questi giorni si sta svolgendo il Congresso Nazionale di Geriatria. E in linea con noi abbiamo il presidente della Società di Gerontologia e Geriatria, il professor Roberto Bernabei. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi. Professore, la vita media per fortuna si allunga, ma come invecchiano gli italiani? Beh, guardi che è notizia recente che abbiamo detto anche al congresso, gli italiani cinquantenni, uomini e donne, sono i più longevi dei 25 paesi della Comunità Europea e sono i più attivi in questa longevità, sono secondi in questo caso solo ai danesi, ma sono veramente dei piccoli campioni da questo punto di vista. Una proposta che arriva dal convegno è di creare un codice d'argento per gli anziani fragili che arrivano al pronto soccorso. Ci spieghi? Perché questo tipo di malati hanno bisogno in genere di un'assistenza a lungo termine che non si risolve nel ricovero ospedaliero. Se lei li etichetta dal primo momento quando transitano dal pronto soccorso, e come sa affibbia il codice bianco se non c'è praticamente nulla, fino a quello rosso che è quello dell'emergenza e sta in pericolo di vita, bisogna affibbiare un codice argento che dica all'ospedale e al reparto dove verrà ricoverata questa persona e al territorio che c'è qualcuno che non bisogna solo del ricovero ospedaliero, ma bisogna anche di altre prestazioni che sono quelle a lungo termine. Professor Bernabei, noi oggi parliamo della relazione che abbiamo con i nostri amici a quattro zampe, ma secondo lei un cane o un gatto possono essere d'aiuto, possono aiutare una persona anziana a vivere meglio? Lei ci ha preso perfettamente, si chiama pet therapy, la terapia con gli animali domestici, che in alcuni casi anche eclatanti, il morbo di Alzheimer, si è visto che ritarda il deterioramento cognitivo perché dà un punto di riferimento a persone che hanno questa problematica. Quindi non è solo l'aiuto nella depressione o nell'esercizio fisico perché devi portarlo a fare la pipì, ma è proprio una vera e propria terapia, è come una pillola. Grazie professor Bernabei, buona giornata. A voi. Un cane per amico, un cane come terapia, dottor Cervia, lei concorda? Assolutamente, anche la nostra associazione, uno dei propositi della nostra associazione è quello appunto di aumentare questo effetto della pet therapy, di per creare appunto queste situazioni negli ospedali e nei punti geriatrici oppure anche con i bambini. Un cane, ma soprattutto occuparsi di un cane è la cosa importante per un malato, cioè avere uno scopo nella vita, che è quello di seguire il proprio cane. Io lo vedo con per esempio i miei amici non vedenti che vengono da me con il loro cane, loro sono molto attenti a quello che ha il loro cane, molto più di una persona normale, si accorgono delle piccole cose e lo curano in un modo con moltissimo amore, ma sono molto presenti. Certo. E questo fatto, il fatto di avere una persona, un essere vivente da accudire è una cosa che gli dà un senso, uno scopo di vita. Pierluigi ci chiama da Milano, buongiorno Pierluigi. Buongiorno a voi, un saluto a tutti, uno particolare al dottor Cervia, con cui credo di aver frequentato le prime due elementari. Ma no, ma sì, che carino, dottor Cervia, abbiamo un suo compagno delle elementari. Noi eravamo due gemelli, quindi non ti puoi sbagliare. Sì, infatti, mi ricordo bene. Senta, com'era? Un po' asino o faceva il primino? No, i gemelli Cervia erano molto bravi già da allora. Ecco, non è vero. Va bene, allora, che cosa ci racconta? Io chiamo per il chihuahua di mia figlia, che ha 18 mesi, chihuahua ovviamente con mia figlia, sì. E ce l'abbiamo da 13 mesi. Gli abbiamo allestito una mini toilette in casa e per i rifiuti solidi non ci sono assolutamente problemi. Per quelli liquidi invece no, nel senso dove capita, capita, la fa dappertutto. Abbiamo provato a punirlo col giornale, facendogli, cioè simulando di picchiarlo col giornale per non fargli male. L'abbiamo tenuto in castigo, abbiamo messo anche delle gocce sul pannolone che usiamo come toilette, ma assolutamente niente, non vuole imparare. In casa dove, dove vuole la fa. È quello. C'è qualche consiglio in più che potete dare? Chi è che mi dà un consiglio? Il professor Marchesini? Ma sicuramente c'è sempre da differenziare quelle che possono essere la pipì, nel senso proprio di dover fare le iniezioni, invece dalla marcatura, perché molto spesso i cani segnano il territorio. Quindi bisogna assolutamente dire una cosa, che è sbagliatissimo utilizzare qualunque forma di punizione, anche quella che non fa dolore, tipo il giornale o le chiavi sbattute per terra, perché creano un maggiore stato di insicurezza e quando un animale si trova in uno stato di insicurezza aumenta la marcatura. Quindi la marcatura molto spesso è un riprendersi un territorio e a volte è semplicemente un modo per tranquillizzarsi da uno stato ansioso. Quindi bisogna assolutamente Ma lei come come bisogna fare per insegnare a questo chihuahua a non far pipì a casa, perché anche se è piccolo l'unico modo per il discorso della pipì, che è una cosa diversa dalla marcatura, per la pipì l'unica cosa è cercare di portarlo fuori quanto più possibile e premiarlo appena lo fa fuori, in modo tale da associare in maniera molto forte l'odore dell'erba, il fare la pipì e un premio alimentare. Questo bisogna assolutamente evitare di tenere pannoloni in casa, evitare di tenere luoghi dove il cane faccia le deiezioni in casa. Molte persone consigliano queste cose, ma è assolutamente sbagliato, perché alla fine se il cane non fa questa differenza tra casa non si sporca e fuori si fa le deiezioni, si confonde. I cani devono uscire e fare i loro bisogni fuori, ma soprattutto mi scusi, professor Marchesini, approfitto anche perché mi stanno arrivando molti messaggi a proposito di cani che escono fuori, di ascoltatori che si firmano, no? Sono un cane, sono amico del cane, ma mi raccomando, anche noi proprietari di cane aiutiamo a farli volere bene dagli altri gestendoli bene, quindi portandoli al guinzaglio, raccogliendo la cacca quando sporcano per strada, e anche questo è un modo di volergli bene, di proteggerli da eventuali cattivo insomma un po' di astio viene nei confronti del cane che sporca, che annusa il bambino quando il bambino non vorrebbe, quindi teniamoli bene. Donata, andiamo a Roma, buongiorno. Sì, buongiorno, volevo fare una domanda. Io ho una gatta da 4 anni sterilizzata, ho figlie. Adesso stiamo per prendere un cucciolotto di cane, un meticcio di taglia piccola, maschio. E allora volevo un consiglio un pochino sulla gestione dei primi tempi, perché ovviamente probabilmente la gatta immagino sarà gelosa, soprattutto magari cose che le ragazze buona fede potrebbero atteggiamenti avere, eccetera, che invece prima ne parlavate, è opportuno invece non avere, ecco. Soprattutto il rapporto tra il gatto, la gatta femmina oramai grande di 4 anni e questo cucciolino di cane piccolino che sta per arrivare. Grazie Donata. Dottor Cervia, secondo lei cosa succederà? Secondo me ci vorrà molto tempo, però si abitueranno a stare insieme. Allora, innanzitutto il cucciolo cercherà di giocare col gatto e il gatto aggredirà il cucciolo, quindi questo sarà un grosso problema, bisognerà insegnare il cucciolo ad affiancarsi al gatto in un modo molto più tranquillo e al gatto a non aggredire il cane. Quindi si dovranno abituare per prima cosa agli odori uno dell'altro, no? Soprattutto del gatto, perché lui è il padrone di casa, quindi introduce un estraneo e gli creerà un grosso problema, no? Il suo equilibrio verrà alterato. Poi un consiglio è quello di tenere comunque le unghie del gatto molto corte, perché le unghie del gatto sono molto affilate, sono dei bisturi e possono provocare dei veri danni nel cane, in questo caso nel cucciolo che sta per arrivare in casa. Quindi assolutamente tagliare le unghie al gatto. non togliere, ho detto tagliare le unghie, che è una pratica che si fa comunemente con tutti i gatti domestici. Quindi un po' di pazienza. Molta pazienza, ci vorrà parecchio tempo. Poi possono diventare amici, anzi giocheranno insieme, sarà anche una cosa divertente. Però ci vuole molto tempo, molta pazienza. La prima cosa, si abitueranno agli odori e quindi alla presenza dell'altro animale. E poi col tempo lentamente si affiancheranno uno con l'altro. Certo, ci vuole molto buon senso anche in fare queste cose. Andiamo adesso a sentire che cosa sta succedendo sulle strade, sulle autostrade con queste nevicate. 824 0024 è il nostro numero verde. Tra poco parleremo anche con i nostri esperti di rapporto tra animali e bambini. Molti bambini chiedono nella letterina di Natale di ricevere un gatto, un cane, un criceto. Cercheremo di capire se come si può educare la relazione o in qualche modo aiutare la relazione tra bambini e animali. Cani, gatti e bambini, arrivano tantissimi messaggi. Vi leggo l'ultimo, ad esempio, di un ascoltatore che ci scrive: abiti in un appartamento, ho un bimbo di 6 anni, che cane mi consigliate? Dottor Cervia, uno pensa bambino piccolo, cane piccolo. No, bambino piccolo, appartamento piccolo, cane piccolo. Per i bambini va benissimo, per esempio i Golden Retriever, i Boxer, i Labrador sono cani che con i bambini sono deliziosi. Però se è un appartamento è un problema, tipo una casa piccola è un problema, perché il cane comunque ingombra, è abbastanza impegnativo. Quindi direi assolutamente un cane piccolo che si adatta ai bambini. Vabbè, a parte che ci sono tanti metici che hanno bisogno di essere salvati, hanno bisogno di aiuto e sono riconoscenti di questo e sono i compagni migliori per un bambino. Certo. E quindi io opterei assolutamente per un cane di questo genere. Però per esempio un barboncino va benissimo, un maltese è un cane sempre contento, allegro. Andiamo ai canili soprattutto in queste occasioni, no? Magari vogliamo decidere di prenderci un amico in casa, salviamolo da un canile. Ma e se il bambino, no, fosse allergico, oppure se la vicinanza di un cane o di un gatto scatenasse l'allergia? È una domanda che, se avete letto, si sta facendo anche il presidente Obama, che ha promesso alla figlia un'amica a 4 zampe, ma deve fare i conti con l'allergia della piccola. Cani e gatti ipoallergenici non esistono, sembra, ma chiedo conferma e un consiglio al dottor Massimo Landi, pediatra allergologo. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Allora, dottor Landi, che si fa? Il cane, il gatto possono provocare delle allergie. Mi sembra però di aver letto che la vicinanza con un cane o un gatto in tenera età potesse avere anche un effetto protettivo nei confronti dell'allergia. Insomma, quale campana dobbiamo credere? Sì, in effetti è uscito qualche lavoro internazionale, soprattutto per quanto riguarda il gatto. Peraltro è uscito anche qualche lavoro contrario, insomma, quindi come sempre credo che si debba mettere del buon senso. In realtà il concetto è un po' più allargato allo stile di vita delle fattorie, in cui non sono soltanto presenti i derivati degli epiteli animali, ma anche proprio uno stile di vita, diciamo così, un po' più ruspante, sì, che potrebbe avere un effetto protettivo. Certamente se il bambino ha già dei sintomi, è evidente che il gatto o il cane è meglio non comprarli. Certo. Se uno non li ha, oppure se uno li ha già, chiaramente il bambino ha dei sintomi, il consiglio dell'allergologo, del pediatra, è quello di allontanare l'animale. È evidente che poi l'affetto delle famiglie, certo, non riesce a fare questo tipo di passo, questo è evidente. Esistono dei prodotti in commercio per ridurre un po' l'allergenicità, però ma funziona, no? Beh, insomma, poi bisogna lavare il gatto 3 volte alla settimana, insomma, quindi qualche problema pratico poi c'è, cioè, sì, un pochino funzionano, però insomma, soprattutto il gatto è un allergene estremamente difficile da allontanare dall'ambiente domestico. È vero che si stanno verificando e si stanno notando anche casi di allergia al pelo di coniglio, perché adesso anche i coniglietti entrano nelle nostre case. Sì, I sintomi però sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi, prevalentemente i peli e le forfole degli animali sono, diciamo, asmogeni, quindi è molto più facile che diano asma piuttosto che la comune rinite. Ecco. Dottor Landi, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie. Saluto anche il professor Roberto Marchesini, che ci ha aiutato a capire qualcosa di più dei nostri animali. Grazie, professore. Grazie a voi, arrivederci. Un saluto anche al nostro dottor Cervia, di cui ricordo anche il sito dell'associazione www.amogliani.com. Dottor Cervia. Eccomi, grazie a te e grazie a tutti gli amici degli animali. Grazie, buona giornata e invitiamo ancora i nostri ascoltatori a pensare ai cani che vivono non sono abbandonati, ma sono nei canili, e per cui un meticcio per accompagnare le vostre giornate. Noi invece restiamo insieme perché abbiamo un appuntamento con il dottor Marco Temporin, medico nutrizionista, specialista in medicina preventiva, che è già in linea con noi. Dottor Temporin, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Bentornato. Grazie. Vediamo che cosa c'è di buono, interessante e salutare tra i prodotti di stagione. Allora, questa volta io vorrei parlarvi del carciofo, che è un ortaggio che io amo particolarmente, non solo per il suo sapore, ma anche per le innumerevoli virtù. Virtù che sono presenti nella pianta intera, ma che purtroppo nelle foglie, in quanto amare e disgustose, non possono essere apprezzate, mentre vengono apprezzate nel capolino floreale, che è un po' la parte che noi poi raccogliamo prima che questa si schiuda e utilizziamo in cucina. La capacità del carciofo nell'essere molto assimilabile e soprattutto nelle sue proprietà possono essere utili sia assunto crudo, che è veramente molto buono, deve essere fatta attenzione a togliere le foglie più esterne che sono particolarmente dure. E poi si toglie anche quella piccola barbetta interna che è fastidiosa sotto i denti. Sì, esatto. E viene poi condito semplicemente con un po' di olio, limone e sale ed è ottimo, molto digeribile, e in questo caso, non essendoci la cottura, la virtù dell'ortaggio è esplicata al massimo. Altrimenti cotto, può essere cotto in vari modi, soprattutto bollito, e l'unico neo è per i soggetti in allattamento. Ecco, le mamme in allattamento è meglio che non utilizzino il carciofo, in quanto può interferire con la produzione lattea. E per questa puntata è tutto, vi ringrazio per essere stato con noi, appuntamento a domani per Questa casa non è un albergo e lunedì sempre con la salute dopo il GR delle 11. Buona giornata da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.